danno. So che il tempo è tiranno, muoio d'affanno, resto calmo e reprimo il rancore dentro al mio palmo. Lo sanno che scrivo col cuore fin quando è caldo, e l'amore che il più delle volte ci mette in salvo. Dal basso all'alto sai che salgo in superficie, se guadagno punti è per ogni cicatrice. Cerchi di essere felice ma il tuo demone ti incarna, e c'è chi resta col vuoto in testa e la faccia scarna. Faccia a faccia con scarna dentro uno psicodramma, nota le note stravolte sopra il mio pentagramma. L'orgoglio di una mamma alimenta la fiamma, i pugni presi nello stomaco rinforzano il diaframma. È un fuori programma, fuori dal tuo programma. Inserisci il programma nel tuo nuovo computer. Ho faccende incompiute, mille cose da fare. Cerco soluzioni che trovo se smetto di cercare. Devo sviluppare il mio quinto senso e mezzo, arrivare presto al sesto e prevedere ogni tuo gesto. Resto tra l'inchiostro e le pagine, ma spesso per la gente ciò che scrivi non fa testo. Vivi il contesto, il resto dividilo. Ma ti sei mai chiesto se sei realmente libero? Che cosa assimilo, che cosa assomiglio? Guardandomi allo specchio più vecchio e senza un affiglio. Mi impiglio e m'attorciglio in un groviglio di pensieri. Momenti condivisi, convisi per giorni interi. Ho i miei doveri, viaggio su altri sentieri. Oggi non cercatemi come avete fatto fino a ieri. Quest'anno so che il tempo è tiranno, muoio d'affanno. Resto calmo e reprimo il rancore dentro al mio palmo. Lo sanno che scrivo col cuore fin quando è caldo. È l'amore che più delle volte ci mette in salvo. Dal basso all'alto sai che salgo in superficie, e se guadagno punti è per ogni cicatrice. Cerchi di essere felice ma il tuo demone ti incarna. C'è chi resta col vuoto in testa e la faccia scarna. Cazzo amico, guardami, ce l'hai questa forza. Tu sei come me, o forse sarai una farsa. Non importa dove sei, con chi giri, fottitene. Si può essere d'acciaio e non sentire ciò che dicono, e spesso ciò che dicono è la cosa più falsa. E quando il falso non è vero vanno tutti a farsi fottere. Le lacrime che piangi in solitudine sorridono. Cazzo amico, guardami, ce l'hai questa forza. Non rimpiangere i trascorsi di una vita trascorsa. I suoni del beat io li sento davvero. Perché perdere fa male, perché perdere ti costa. Devi alzare la posta dopo aver perso una corsa, fino all'ultimo metro in cui rincorri senza sosta. È vero amico, è duro, è un gioco troppo complesso. Resta in guerra con gli altri e fai pace con te stesso. Vinci amico, vinci, perché è il massimo davvero. Quest'anno so che il tempo è tiranno, muoio d'affanno. Resto calmo e reprimo il rancore dentro al mio palmo. Lo sanno che scrivo col cuore fin quando è caldo. È l'amore che più delle volte ci mette in salvo. Dal basso all'alto sai che salgo in superficie, e se guadagno punti è per ogni cicatrice. Cerchi di essere felice ma il tuo demone ti incarna. C'è chi resta col vuoto in testa e la faccia scarna.